questa è quella della LEM, perché ho visto che la fa anche la Sigma, la gemella. Io l'ho avuta nella LEM, quella lì, l'ho avuta anche io, a casa di mamma, quando ero più giovinastro. E arrivavo a Santiago, l'ho vicino al ghero da casa di mamma, figurati. Vanno molto bene quelle antenne, l'unica cosa che c'era è che mi giocavano sempre un campanello per dire che facevo di guai. E alla fine mamma me l'ha fatta tua. Però l'ho avuta anche io quella, e ne ha già avuto le antenne, ho avuto quella. Ho avuto... Poi ho preso la Mantova 5, poi ho avuto le 50, poi ho avuto la Game Master, adesso c'ho questa. Capa di Lometto. E va bene, dai, ne sento 2 minuti, arrivo subito. Allora, io... Questa me l'ha messa nel palo in alto qua. E sono sicurissimo che esce molto forte poi. Ma non ci ha mai preso tanto da quell'antenna, quella piccola 5 ottavi che rompe bene, quella che c'ha fatto. Sì. Quella lì è piccola, non da ingombro, e va molto bene. Ma c'ho questa che no, per quel cielo, questa qua l'ho riparata tutta, io me. Gli ho rifatto il filo, gli ho rifatto tutto, tutto. L'ho riparata in tutto. Perché chi mi ha fatto, l'ha fatto male. Capito? E io poi l'ho presa e l'ho riparata. E basta mettermi delle precauzioni, le fascette in acciaio invece che in ferro, basta fare queste cose qua, piccole cose che magari la fanno rendere di meglio, la fanno durare di più. Ma praticamente questa io ho rifatto il filo nuovo, gli ho messo il capricorda nuovo, tutto nuovo. Fatto bene, così almeno me l'hai vulcanizzata adesso. Daniele, ci sei ancora? Daniele si è sentato. Sì. Chi è che ci è rimasto? Io ci sono, è Gianni. Già sei tu. Sei di voi, mi privanta laggiù, vabbè, a me vuoi. Buonasera. Sei tutto sacro, non capiamo bene male che cosa stai dicendo, sei un po' sacro. Non lo so, forse sto pensando che fosse uno che conosco, ma non so se lui, quindi lo faccio lui. No, è che ti sento bene a te, però. A me bene mi sì. Bianco per me che mi sono al cellulare. Gianni ti sento bene, a lui è che non lo sento tanto bene. Cappa, non ho capito chi sei comunque, buonasera. Sempre quello di prima, Giovanni. Ah, Giovanni, ogni tanto cambio modulazione, capito? Lui. E Antonio via Milano, capito? E ha messo un apparecchio, un'antenna così dove lavora. Lo stavo ascoltando. Ma qual è secondo voi la migliore di queste antenne? Ce ne sono tante buone. Bene. Bene, quella lì, se tu la sollevi va bene, se sollevi il palo è di uso per l'antenna, va bene, anche se costa poco, vorrei. Compra l'attacca a panni che va bene. Ma l'ho già sollevato il palo, L'ho già sollevato, l'ho sollevato quello e anche quello dell'altra, della Ringo. Ah, ne hai due antenne? Sì, c'è una Ringo e quell'altra Sirio. E questa arriva a 9.15, ci arriva abbastanza bene. Io con che segnale ti arrivo lì? Tu guarda, io te l'ho detto da poco fa, però c'ho questo FM500S e... Sei basso, però è molto chiara la voce. Basso come? Basso di segnale? Allora, qui quando parli la lancetta si ferma sul 3 e poi sei sul 2. Non so cosa dire. Magari c'hai... Cosa c'ha? Adesso non mi ricordo se ha lo squelci, sì, lo squelci, le fighi. Non lo ricordo se ce li ha. Sì, ce li ha. C'ha lo Squatch, c'ha Ref Gain, Nick Gain, insomma. Magari è regolato male da Memmi. E allora, lo Squatch sicuramente ce l'ha ben chiuso. Prova a aprirlo. guarda lo squash e rotalo verso sinistra. Ciucca ciù, ciucca ciù. Poi pompetta. Dove, buonasera. Ciao Pupo. Salutoni, salutoni. E allora, che se si combina? Nulla, sto appena rientrando, la verità. Sono andato in farmacia, allo spi, eccetera, eccetera, sto appena rientrando. Ma abbiamo detto che anche dallo spi l'ho aumentato un po' in prima. La radio è quella che prendo io, da 55 a 59. E invece quella verde è un cazzo aumentato, quella, 55 centesimi. Poi non ci ho fatto neanche caso degli altri prezzi, la verità, ma ha aumentato la roba un bel. Da Sony adesso la Heineken, prima era 3 euro, adesso 3,50. L'acqua sotto casa mia, la San Giorgio, 4 pacchi, cazzo, 15 euro. 15 euro 4 pacchi d'acqua, ma si scherza. E vabbè. Hanno messo i pomodori a 5 euro, erano 1 euro e 30, e il mezzo era 30, aveva sotto i 5 euro, 10. Chi è che mi stava chiamando? I carabinieri. Avanti, avanti. E beh, Antone, come ti sto arrivando? 9.30, sì, radio 5, è sempre uguaglio. Sei più uguale il segnale a te, Pupù. Ti salutano tutti, me. Contraccambio, Antu. Saluta. Sempre uguale, Antu. Me. Gli è mai compreso. Daniel. Ehi, Antone, a tre radiali sta andando, e qua non c'è stato verso di farglielo facciare, di farglielo scavalcare, non sono riuscito. Però c'ho un euro di stazionarie, va bene. Adesso vediamo la resa, con la ricezione. No, ma te l'ho detto, la grappa esce bene. Hai capito, esce abbastanza bene la grappa. Soltanto, Antone, che non riesco a sollevare il terzo elemento. Si è fatto storto col vento, sono riuscito ad abbassarlo, però adesso a sollevarlo è un casino. Magari piano piano si prende forma adesso che è giù e riesco a tirarlo magari un po' più su prossimamente. Non è così facile, dovessi scaldarlo. Se lo scaldi appena appena, in pratica col calore riesci a tirarlo su, se no un cazzo ce la fai, a meno che non prendi la pinza quella a scatto e cominci a martellare verso dove va lassù. È successo anche a me giù a coso, con Paolo Telescopico. Purtroppo succede così, una volta che si piega, che fa aderenza, no? Anche se mi passa il CRC, un cazzo ce la fai. L'unica cosa è scaldare con un coso e allora molla subito, hai capito? L'unico modo è quello, ma quando lo cambi gli ultimi due elementi e se la biglia in Napoli, cioè cambi l'elemento che ti hai gatto e glielo metti nuovo. Anche io ho pensato di fare quello, però all'inizio scendendo si è mezzo puntato, poi sono riuscito a sbloccarlo e stava sceso tranquillamente. Però poi invece che non ci sono altri elementi, si è incassato ancora di più, poi devo trovare il punto giusto per smuoverlo. È l'unica, lo scaldo, se no la pinza a scatto. Quindi la pinza a scatto con una mazzetta dai colpi tiri sopra, capito? Non incomoda è quello. Il problema è che ci devi salire su e non è così facile da temi. Andare con una pinza a scatto e martellare, non ti pare io se ti pare. Vedi, sono tra così e ciccia. Anche se era già lì, ti ho detto, almeno arrivare a un metro di altezza, diciamo la parte più stretta, la parte più lunga, un po' più verso dove è all'attacco, a fargli arrivare almeno un metro dallo spigolo del tetto. Quello sì. sarebbe stato facile. E purtroppo col palo telescopico succede così. Ho avuto problemi io giù in un piatto antenna dopo 2 anni. Hai capito? Sono uscito a abbassarlo, quando lo stavo sollevando, cazzo, fottuto sono, cazzo, ho detto. Provato il pappagallo, nulla, niente da fare, quanto di cascata non ne avevo, quindi non ho potuto sollevare il palo di 50 centimetri. Mi bastava solo quello. Poi ho fatto il puntamento per l'antenna TV, visto che col televisore mio si vedeva bene, con ricevitore solo di quelli modello vecchio, antico e cose del genere, ne aveva la metà, e ascolta che mette il televisore, io il televisore dice non è cambio, lascio il ricevitore che c'è, allora ho detto fa una cosa, ho detto vai a fanculo, ho detto che era il tondo, gli ho detto. Perché col mio televisore dove vedi che si vede le 1, le 2, le 3, sono tutti HD solo. Siccome trasmettevo HD fra 2-3 mesi, ho detto, quindi, mica ti devo lasciare il televisore mio a regalo, gli ho detto, non sarai scemo, gli ho detto. E tu metti con il televisore tra l'angelo, perché io con il televisore mio si vedono tutti e non puoi dire no, e vede anche tua moglie con l'altro televisore HD, gli ho detto, quindi non mi devi dire assillare e rompermi le balle, detto chiaro. Ho detto, se ti dà fastidio fa come vuoi, la puoi anche cambiare destra, sinistra, destra, a me non me ne fotte nulla, sto piano più, ne sto andando a casa, devo stare qui tutto il giorno per le macchine tue, gli ho detto. E non lo so, cubacco so. Te lo sto facendo gratis questo lavoro qua, cazzo pretendi pure, non saranno, gli ho detto. Allora. E va bene ragazzi, dai, adesso chiudo, fine le trasmissioni, ci ascoltiamo più tardi se ci siete. Sì, comunque io il tubo con il telescopico ce l'ho fatta a piegarlo, L'ho fatto scendere sin dove c'era la piega e poi ho fatto leva, si è rimasto dritto, l'ho messo un po' di CRC con un po' di forza, l'ho fatto fuori. Lo so già, ma il mio è attaccato al muro, quindi poco movimento riesco a fargli fare, capito? Ma adesso, vabbè, oggi non ce la facevo più anche con le mani, cioè mi facevano male le tue mani oggi. Adesso prossimamente cerco di sbloccarlo. Oh Daniele. Ehi Antone. Se ci devi buttare con la B27L, portamela qua che vedo di... se riesco a sistemarla. Antone, l'ho fatta a pezzi, l'ho fatta. Vabbè, allora niente, se non te l'avevi cercato di sistemartela, almeno, dalla base di sotto, perché adesso sto facendo le antenne nuove, e in pratica carica non ce l'hai, capito? Basta allungare lo stilo, l'avevi fatto tipo che era la pesca, capito? Su 7 metri di coso con la bombina già pronta sotto, dove c'è il coso, e sarebbe stato un bombo. Lo so Antone, lo so, e vabbè, tanto ripeto, questa l'ho presa da provare, poi vediamo, se no la tolgo e ciccia, ne prendiamo un'altra. No, già esce bene quella, non ti preoccupare, non avrei nessun problema, lasciala stare, già va bene la gran pregia, già pompa, già, poi da dove sei tu, mi dici, poi già, la bella propagazione spagnola, senti. Caro, adesso aspettiamo con 45 a vedere cosa dice, se mi sentono sempre. E a voglia che ti sentiranno per forza. Caro, va bene ragazzuri, dai, io chiudo per il momento e ci ascoltiamo dopo, dai, come rientro se ci siete. E a dopo, ciao, ci sentiamo Daniele. Caro, dai, sotto i circolari a tutti. Ciao, ce la risentiamo, ciao. Ehi, dimmi tutto. Avanti a culo. Più in alto ce la metto, poi vediamo se pompa. Se non è che più in alto, gli ho cavolo e pompa un bel. Te lo sto dicendo, la donna che c'è, dove sei tu e dove c'è Daniele, è micidiale. Capito? È che io non abito più dove abitavo prima, se no, sono fatto al gara per chi esce più forte a centro Sardegna, da lì. Anche io c'ho sicuramente da qua vedo il coso, tutta la 131 vedo, fino a coso, fino a, non lo so, fino a dopo Campomella penso. E magari c'hai il pezzo che è aperto dal dove c'è Monte Santo, ho capito, quindi sei tutto aperto, sì, quindi non ti preoccupare per quello. Te lo sto dicendo, è un punto veramente bello, ti metti in macchina e fai famiglia e fai, te lo gioco di zendi. Io penso dopo, non lo so, ciao, non lo so dove, ma io penso dopo Bonorva anche arrivo forte. C'hai punti ben aperti lì, e che io abito qua, se avessi abitato dove ero prima posso rispostarmi, se fossi stato lì in quella palazzina, te lo sto dicendo, con un chevo davvero trovo un sacco di matala, un bel di gente, perché il chevo io l'ho provato lì in quel palazzo e parlavo tranquillamente con Cagliari. Cioè Cagliari no, ma Villacido sì, Villacido mi arrivava segnale di 5-7, arrivava. Io arrivavo intorno ai 5-7 lo stesso, qui te lo sto dicendo, era una zona aperta e come palo, avevo 2 metri di palo, mi avete che diciamo sopra il tetto, avevo 6 metri di palo, 8, non c'era nessun bisogno. Il punto che è aperto per Osilo, per la zona di Tempio, della Galluna, è tutto aperto di sé. Io non so che c'è il canalone, scala di gioco, no? Che puoi immaginare? Appunto per quello, te lo sto dicendo. Io ho abitato lì 20 anni e qualche cosa, e sono i punti esatti. Se a posto di venire qui dove... Qui sono molto più alto, in realtà, però sono coperto, hai capito? Per la zona di Osilo, Gallura e cosa del genere, sono tutto chiuso adesso. Solo ce l'ho chiuso lo stesso, prima invece ce l'avevo aperto, in verizzetto. E purtroppo è così. La zona sono cambiato, qui hanno costruito le palazzine più alte dove sono io, così è stato per dire... dove c'era l'alberghiero, allora si sarebbe stato tutta una cosa diversa. Da lì mi sarei divertito, da lì dove c'era l'alberghiero. Sto dicendo che lì ho visto una cosa, un panorama allucinante, ho visto dove c'è l'alberghiero lì. Una cosa che non si crede, tutta la 103, ma anche da qua, in quel pezzo lì, in quel pezzo. Io qua vedo tutto, vedo. E che adesso è bassa, quando l'ha bombinato. Io vedo tutto il pezzo di scala di gioco lì, cioè tutta la 131. Puglia, fino al ghiero a bomba. Tu c'hai aperto Capocaccia, c'hai aperto Russi che ti c'è tutto di fronte, ma con chilometro, figurati. Quindi a voglia. È un punto bello, riguarda. Anche dove abitava mia sorella era un punto di lusso. In quel palazzo dove abitava lì a Russi. E che non ti fanno pensare nulla sopra il tetto lì. Se no mi sei andato lì a abitare. Una bella mantova lì piazzata messo sopra il tetto, proprio a pari del costume di dove abita adesso, tutto si vedeva, Torres, Itteri, Ossi, Pissi, Usi, tutto vedevo, hai capito? A livello di letteraie, anche se è a sospiano, però è a livello di letteraie. Qua un po' forte, che anche se non è molto alto, non c'è un palazzo, ma è molto aperto. Certo. Hai aperto sti tesori, Daniele già ne sa qualcosa da lì su, io infatti vedo da lì e dice un bel forte, infatti ci va parecchio forte da lì, dove abita lui. Ma lui è coperto dai palazzi, Daniele, e non che non fa nulla a me. Daniele c'ha tutto aperto, c'ha me. Allora che lo usi, i battisti ossi, usini, bosa, mono, è tutto aperto. Mettiamo te lo di fronte, c'ha la, vede la, come si chiama, usino là di sopra, io sono salito sopra quel palazzo. Hai capito? E quindi ne so qualcosa. Di quella palazzi là lì. Non è male, guarda, per essere come è Caputo c'è anche troppo forte per essere così in basso, dai, cavolo, sta pompando un bel per avere pochissimi vatti pure, perché non c'è niente, capito? A Daniele ci sarebbe andata bene un'antenna senza radiati, già lo so, tipo la Ringo, tipo Ringo che master è... anche con la nuova che è uscita la gente va bene. Un po' a voce chi sta andando per la chiusura, ho visto quella ricosa, ui come si muove, ma sono passato via la rotatoria di via Lunessone e ho visto quella che c'è di fronte alla scuola antica, e capito, se la pigiata. Già l'ho vista già, e qua no, la, quando è che è stato? Quanti ieri? Qua arriva a fondo scala, cioè, va a pompa, tutta la bomba arriva da via Lune Sole, e vabbè lassù, ci mancherebbe che non arrivasse forte. E beh, già metà strada lui, è quasi vicino a voi. Sai quanto gli arriva Roberto Quadrato? 9,40 gli arrivo. Tu? Già, e da gas è lontano. Ma da lì gli arrivi 9,40? A bomba. E da questi ci prendono le antenne. E Roberto non è che ci ha salutato, ma è molto... già ce n'è di strada a fare. Poi va a farlo da lì a casa, da Roberto, a Pisa. E lui qua mi fa toccare il DP, mi fa toccare, cioè proprio fondo fondo, anche attenuato, è una cosa impressionante. Cioè mi arriva una maniera paurosa. E vabbè, ma non è necessario, interessante che ci sentiamo bene da buco. Non è necessario arrivare, a volte signori quando sono troppo furti distorce anche la radio, lo sa? No, vabbè, perché lui è vicino, capito? È vicino da qua. Anche a casa, a casa mi arriva fortissimo. Per dire, a Franco io lo sento distorto con certe radio, capito? Lo sento distorto. Perché sono più strette come frequenza e praticamente distorce perché è troppo vicino. Beh, è normale, è troppo forte. Infatti sta piatta come sta uscendo come se fosse fuori frequenza, gli altri sentivano bene. Tutti gli altri sentivo bene, boh. Io me ne frego perché sulla attivo di 20 dB, se è troppo vicino non mi fa nulla. E anche io lo posso fare, non è che... però normalmente, normale io sto dicendo, se poi attivo, anche gli altri segnali e non puoi dare il controllo e tutto l'altro, va come. Normale è così, se poi l'attivo anche io lo dicevo bene. Che bello. Tra 5 minuti devo uscire. Sì, a cosa? Devo uscire a portarci una bomba. Lontano? Ah, qua vicino. Sì, allora perfetto. Tra e fa. Ho capito già. Ho detto tra e fa. Sì, già. E cosa mi buca? E fa. Poi ti piace veloce schittando il muro. Aia, devi pompare, no non mi vai a travaglio. Poi questa deve andare a mille, se no non ve la fai. Devi essere svelto. No, l'altro giorno ho visto di domenica uno consegnando le bombole, è allucinato. Cioè, chi non va a su chi fa, compreso. Gente guasta, Se ne pure lo travaglia all'altro. Allora, ne pure lo travaglia all'altro, rompono le scatole, capito? Ma te lo sai cosa teatro che la proprio la mancanza per la domenica, io proprio c'ho due, già lo sai, c'ho due cucine. Se mi manca una c'ho l'altra, però ci sono certe cose che mi hanno una sola di bomba. Mi manca sempre la domenica, a casa di mamma sempre così succedeva. La domenica allora mio padre mi aveva preso una di riserva, quando mancava lui ha chiesto. Già lo so che è così. Però se la devi scorda, ho proprio capito. Tanto non ho capito se sei tu o se qualcuno che sta facendo una cosa del genere. Non si capisce se è il rumore di microfono e che cosa. C'era uno sotto. Uno sotto. Sicuramente sarà sempre chi c'è un guardo. Ciao Marco. Ciao a tutti signori, io finalmente sono rintanato, ho messo la moto dentro, adesso sto mangiando, sto facendo colazione, tanto per cambiare. E voi come va? Che palle, sono stanco però me, le commissioni mi stancano. Marco, come va? Come sempre. Ci lamentiamo dei prezzi, perché stanno aumentando troppo. Allora, prima ho fatto 5 euro di benzina nella moto, perché tanto di più non entrano. Ero appena appena a riserva. Allora, servito in via Carlo Felice, 2,49 euro. Sono rimasto allibito, gli ho detto cazzo! E ho detto ne viene sempre meno, dice purtroppo è così. 2,049 euro, no, 49 centesimi. Mi sentite bene con questo apparecchio? Benissimo. Allora, c'è Dubai, quanto costa la benzina? Costerà meno dell'acqua minimo. 50 centesimi, non l'ho fatto vedere oggi. 50 centesimi a Dubai. Non c'è la, come si dice, l'euro, però hanno fatto il calcolo e viene 50 centesimi. Il pieno di una 3000 di cilindrata è venuto 30 euro. Vai tu, ne approfittano perché sanno di avere il petrolio. Ma già lo finiranno il petrolio tra qualche decennio questi Zulu, poi voglio vedere. Vai Antu, dai stacco che mangio, dai vi ascolto. No, ecco il cazzo, ma perché non si vergognano, per carità, ignoranti. Ma lo dice sfogliatore, l'ho pagata 1,80 il litro. Cioè, allora non rende più la benzina, ma con 3 litri si pone. Gianni ti chiamano. E avanti chi mi chiama? Giovanni sono, mi ascolti oppure no? Sì, ti ascolto, ma stava parlando Antonio. Dai Antonio, vai. Antonio, va, c'è anche la propagazione sotto. C'è un po' di casotto, un po' di QRM, insomma, già lo risolvo, dai, perché sicuramente i biglia furie, perché se passa l'antenna prende un po' di spuria. Tanto lì che apparecchio ti hai messo? Intec. Ah, quello non si è preso, quello che va bene, è 5,50. Sì, c'ho 10 anni ce l'ho questo apparecchio e funziona bene, è tutto, c'è la scheda, ecco, tutto dentro, tutto, e non va bene. Sì, è un bel apparecchio, me lo ricordo che andava bene, e si sente anche molto bene la radio, molto forte. Sì, sì, sì, ma le metto a trovare a 50 ampere, io ho voglia che basta, funziona benissimo, funziona. Ciao ragazzi. Era quello che è entrato, però non lo riuscivo a sentire, c'era un QRM troppo a mano. Giovanni di Platamona. Ah, capo. Ciao Giovanni, mi senti lì a Platamona? Sì, Antonio, riesco a sentirti, sì. Tu va bene, senti? Tu lo senti, Antonio? No, non lo riesco a sentire, c'è il QRM troppo alto. Cioè. Quando la sistemo bene, però che lo sento anche bene. Già ti ascolta, comunque. Lo so che lui mi ascolta da qua. Gianni, dov'è l'amico? Ho detto prima del mio, ho detto figlio, dai. Ah, cosa di Platamona, sì, Santiago 5, e la radio ti dirò che è discreta, perché altri giorni usciva a Saturo, oggi sta uscendo bene. Giovanni mi copi, interrogativo. Interrogazione, ti sento bene. Mi ha contagiato Lupo Grigio con questo interrogativo, mi sa molto di frequenze, Gianni. so, ne usavamo anche prima, erano cattivo, lo dicevamo anche noi di qua, il 27. Praticamente parlato. Sì, almeno uno sentisce che gli stai facendo una domanda al 28. Ma gruppo grigio sta entrando. Allora già, Lupo Grigio l'ho sentito qualche settimana fa, che chiedeva un controllo, però era nelle stesse condizioni, sempre tipo portatile, lo ascoltavo solo io, arrivava circa 9, tra l'8 e il 9, 7, 8, 9, un po' oscillavano, provava due antenne però non lo sentono, se non mette antenna su non lo sentono, cappa, va bene, non riprendo, adesso l'ascolto che c'è il piatto, ciao, vai Antu. Io attimo di guarisci, perché quando mangiami qualcosa fa. L'ho contagiato. Non mi mangio una cartatina, tanto per prendere l'angolo. Antonio, dai, ciao, ci sentiamo quando capita, ok? Buona serata a tutti, ciao. Ciao da parte mia, ciao. Ciao Giovanni, ciao, alla prossima. Va bene, dai, io ce la risentiamo. Io vi saluto, che vado a fare roba. Ok, ciao a tutti. Ciao Antonio, ciao. Saluto anche a tutti quanti. Ciao, alla prossima. Ciao Antonio, ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciu che ciu è la telefono. Tutti spariti siete. E buonasera a tutti. Sto usando il 48 originale con 3 watt. Sì, 9,15. E io molto ci sto arrivando, guarda, ti faccio prima un passaggio, che sarebbe questo. Vai, qua c'è i 9 e qualcosa, picchi positivi. E questo è il secondo passaggio, 1, 2, 3 prova. 9,26, sempre a picchi positivi. Nel 48 sto parlando. Se l'ho acceso dopo secoli anche questo. Sì, Luca, ho piazzato la Grand Plane e la sto testando, vediamo cosa ne c'è fuori. Più che altro per la ricezione, per città va bene. Stazionarie? 1 e 1, perfetto. Previsto, e invece sempre lì nella ringhiera. Sì, ho lavorato l'altra, ho sceso l'altra e come si dice, è piazzata a quella. È veloce da piazzare, è veloce. Soltanto mi sono ingarbugliato, adesso domani è vero se riesco a salire il terzo elemento del palo, perché il vento me l'ha fatto storto, perché l'ho abbassato e non riesco più a sollevarlo. Domani provo e vediamo un po' cosa succede. Sì, va bene, si è sgacciato. 747 è quello, se ti domanda una foto. Uff, mamma mia, cazzo. ecco qua. Vediamo un po' se c'è Bombolino. Bombolino, ci sei? Aspetta, cambio radio, Lu, aspetta. Via. Oh, Lugarelli, ci sei? Ehi, mi soco, mi soco. Fai un passaggio, vai, sei a casa tua, sei tua mamma. Sì, sì, giù non ho più niente, sì, aspetta, là, guarda, guarda quanto arrivo così. 6 watt. 9.10, modulati 9.15, sì. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 9.20, tondi a picchi positivi. Cioè, vabbè, tu sei praticamente 9... Non so se te l'ha tolto bene questo Smith, arrivi praticamente davanti al più del più 30. Troppa di rosmetto, ma sempre lo stesso segnale, te lo ricordi? Oh, è calato. Aspetta che ti stai mandando un po' una cosa. Che stava attaccando, mi ha attaccato il 40 perché ho fatto un casino dietro a Giovanni. Stavo facendo la TV, sì, sì, siamo lo stesso segnale più o meno, dai. Cava, cava, aspetta che faccio andare l'altro un secondo, aspetta così li faccio girare. Luca lì! Luca! Luca! Daniele, un attimino che mi sono spostato, cioè stamattina, cazzo sono smattuto, cioè gli occhiali, cioè ho gli occhiali da vista, no? Stavo sistemando il tutto qua. Praticamente se ho quella lampada a braccio, no? Ce l'avevo sotto per farmi luce, perché non vedevo bene, sotto il comodino ci ho messo, c'è un comodino dove c'è il baracchino, no? E vado a sbattere praticamente gli occhiali al coso della lampada, sopra il naso, mi fa un male allucinante, poi mi sta mettendo l'asoni, vediamo un po' se mi passa. Carità, grazie a tutti, tanto disastrato. Che palle qua. Cazzarola. Guarda adesso come ti sta arrivando, Lugarie. Aspetta che metto gli occhiali, sennò non ti posso aiutare. Vai, prova. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Eh sì, praticamente è in mezzo, tra il più e il 3. Gama, gama, sono agganciato adesso, Lugarie. Quanti ne hai? Tutto alla massima potenza, E quanti? 100, 200, 300, quanti so? Questo è la 600, Cazzo! Questo è quello grande, mi Lugarie. Sì, sì, sì, no, te l'ho detto, tra il più, c'è in mezzo, tra il più e il 3. Guarda, così sono la media potenza. Prova. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, sul più va a picchiare tra il più, cioè in mezzo, là, tra il 3 e il più. Così è bassa potenza. Davanti al più. Capparose, già va bene, 45 già va bene. A voglia se ti sentono. Ma lì devi metterlo a 5 ottavi, Daniele, a 5 ottavi è l'antenna. No, è come la Ringo, è un quarto d'onda, mi sa. Ah, un quarto d'onda, ma ci mettono a 5 ottavi, ce ne sono belle. Lo so, Lugarie. Adesso ho provato questa, poi... Se restate un aggancio a 45, vabbè, con la propagazione ci agganci sempre. Già non c'è problema, quando è bella forte già agganci. Aspetta un attimino, Dani, ascolta un messaggio, Gaba. Gaba, gaba. Gaba, gaba, gaba, gaba. Adesso sono col grande, mi Lugarie. Già lo so che è grande, si sente. Bene, veda. Ma l'altro giorno si è passato in piazza d'Italia. Prendi i messaggi, mattina, come mi si girano le balle, qua, cazzo di cavolo, qua. Uia. Allora. Ecco qua, sì, quello è vero. Ho preso, così è. Quando è? Allora, mi è successo questo fatto qua, avanti ieri, martedì. Stavo camminando in Piazza d'Italia, mi sembravi tu questo con la cuffietta in testa, no? Con la barbettina, no? Cito, però non ero sicuro, però mi sono avvicinato un bel, perché mi sembravi tu, no? Che c'è anche Antonello Tende, muratore. Infatti poi l'ho chiesto, detto, comunque non eri tu, la cazzo là, e siccome stava passando la zappa lì, perché hanno fatto la traccia, non lo so, o perché cosa, mi stavo avvicinando per dirti se avevi trovato la spara. Meno male che poi ho visto bene me che non eri tu. Comunque gliel'ho chiesto a Antonello, tu mi ha detto che eri in un'altra via lavorando. Ehi, vai, sono stamattina, vai. E hai passato Luca e fa, lo conosci? Certo che lo conosco. Mi aveva detto che sei passato. No, lì stavo facendo le tarittorie nuove degli scogli dall'acqua, quelli sono intorno alla piazza. Io sono in via Politeama adesso, poi c'è il Teatro Verdi. Ho capito. Se io lo conosco, io sono fra di capo me. Se fra di capo, un bel fra di capo, un bel. Già, ce ne siamo accorti. Io ti consiglio, trovo, è meglio attaccarti mano un tipo del genere, perché è molto pericoloso. Ho fatto diversi lavori con lui, tranquillo, ragazzo, scherza, ride, fa, disfa. Già in gamba. No, non so se lo è cattivo, però dico, meglio se prendere d'accordo, capito? Meglio andare d'accordo. Stare in pace, sereni, perché è un tipo che si fa rispettare un bel, eh. Vabbè, dai, poi quando siamo a quattro che te ne parlo. Calma, che aveva pure, cos'è, ma locali, ma cosa ci aveva prima? Ah, boh, questo non lo so, ma da poco è entrato. Come a ottobre è entrato? Con te, lui è un muratore, sì? Sì, muratore, ogni tanto si attacca con Ghida. Sì, ma solo quando questi poi si va a riferire tutto e poi non ti fanno più entrare. Già lo so. Adesso pure a guardare che dice che hanno fatto il bando per prorogarci il contratto. E va a voi. Cappa, sul sito dice Sardegna, poi lo devo guardare. Domande non ce ne sono ancora. No, lui, non lo so, se hanno fatto sia per prendere a tempo e a me l'ultima di Tantonello, perché c'ha la cugina, che vabbè, cugina acquisita, la compagna, che è assessore, e lei l'ha pubblicato su Faccia di Libro che ce la prova in queste domande. Vabbè, quando sono entrato io ci voleva la patente per guidare il furgone, adesso ci vuole la B, ho visto che fa anche l'autista, tu lo stai guidando il furgone. E allora, me l'avessi fatto io l'altro collega, se posso me la svigno, perché è una giugana che ha preso a nelle torrenti di Girattrottola, andare all'autopalco, scaricare sabbia e via dicendo, lontane, e cattue. Ma che la furti? Ci avrei messo la firma, guarda. In effetti non te la fai la giornata, ti vola di più quando è tornato, ti spacchi la schiena impastando e facendo. Vai che appena così, fai l'autista e poi scendi, fai il tuo cantiere e continui a fare quello che devi fare quando hai finito di guidare. Vabbè, ma non è mai come fare il coso, ma te l'hanno detto loro se volevi fare guidare. L'architetta ha chiesto, possiamo guidare tutti, però lì ha tracciato non so quanti specchietti la volta. Quell'altro non se la sente di fare mille giri, e allora io ho guidato una volta, la quella volta è stata una maladama. Aspetta 2 secondi, eh. Ehi, Arugarie. Faccia la bombolino. Aspetta, va la cutia a piccolino, aspetta. Bombolino. Esci a vedere. Vabbè, là. Forse lo stacchiamo. Che forse è meglio. Già va bene così, va bene cosa, va bene così. E va bene cosa. Antonio, ho detto che sta facendo karaoke. Sta facendo karaoke? No, sta facendo, a casa sua. No, vabbè, sta cantando in un circolo, eh. Ma è possibile. Come voi entrate, Daniele? Alle 8, oggi alle 9, che ne entrate? Facciamo 8.30, 12.30. Vabbè, dai. 12.30 deve essere già in cantiere, giù? Esatto, 12.30 già fuori dal cancello, scaricate tutto. Ma firmate, avete qualcosa, firmate? Sì, con la giornaliera, mettiamo le firme e tutte le cose e poi vanno su alle uffici soliti là sopra Corte Santa Maria. Tu che state facendo un solo ciotolato per il momento? Io mi sono messo insieme all'altro mio collega, all'altro muratore, che mi ha fatto ciotolato, ma la guida non aveva mai nulla, capito? Se ero giù a Latte Dolce, dove ci sono le porte, mi sta facendo tutte quelle cordonate, marciapiede, quello e quell'altro. Interessante che ogni vede ci siano i su, poi del resto ce ne frega. Un casino, l'entrata io sicuramente è un casino, ma l'hai bloccato il reddito, sì? No, avvisati e me l'hanno diminuito, non l'hanno bloccato, l'hanno diminuito. Ah, e vabbè, comunque lo prendo lo stesso, dai. Cappa di rosmetro, tutto ho fatto la regola d'arte col CAF e tutte le cose. E poi, e si vedrà. Comunque controlla sul CIL Sardegna, lui, guarda che quella... Se è vero che hanno messo questo quadro qua. Eia, prendo un'occhiata, dai, vediamo. Cappa di rosmetro. Sì, il Sardegna lavoro. Si conferma. Ma nella bacheca devo controllare. Prova lui. Nella bacheca se c'è qualcosa. Allora, Carbonia, Lanusei, Carbonia, Porto Sant'Elena, Nuvolo, Cagliari. Aspetta. Adesso controllo se c'è qualcosa per Sassari, vediamo. Come sa di no? No, c'è solo una pagina e basta, anzi. No. Niente da niente, c'è solo questi paesi qua. Sassari non c'è. Ma i cantieri della Horas non sono su Sardegna? Ah boh, io sono andato su Agenda e su Bacchetta. E c'è solo... aspetta che torno indietro, aspetta, vediamo. Controllo su Sardegna, vediamo un po' se è qua, Vediamo un po'. Allora, Agenda. Vediamo se vediamo. Forse è questo. No, c'è solo questo qua, Daniele. Carbonia, Lanusei, Porto Sant'Elena, Cagliari e Assemini. No, c'è niente. Io ancora non ho guardato, quindi quello che è stato detto ti ho riferito. Perché lo stesso, l'altra volta che ho chiamato il tutto all'ufficio di collocamento, dicendo che avessero messo bando per... come si chiama, per far uscire alla provincia, su Sassari, Borizzale, poi non mi ricordo se era Nuoro, io non trovavo mai Sassari, la presa l'ho fatta a Borizzale, mio collega invece mi aveva detto che è stato fisso a come si chiama, a Sassari, ho mandato il cantiere il 14 è entrato uscire in provincia. Ci vogliono calci in culo, la mulata non la stai più facendo, no? Sì, quando c'è da fare si fa anche quello, lui. già si fa, poi settimane fa era Olga a fare assistenza con Lorena e l'altro mio collega, 2 giorni. Sì, però non c'è, solo la bacheca di Cagliari e basta. Sì, bacheca, archivio, comunicati, stampati, Non c'è niente, Daniele, perlomeno non vedo niente. È quella a casa, non mi ricordo neanche come si chiama. Dopo controllo, mi faccio un giro e vedo già come riesco a trovare. Eia. Tanto mi fa male, un cacchio di naso, guarda, sopra proprio. Come sbattuto con gli occhiali, vabbè, meglio, se mi prendeva attento che mi avrebbe spaccato il naso. Certo, allora. Da cenato hai? No, sei quasi pronto. Vicino alla riga giù mangiando, ma come siete alle 7:30 come all'ospedale. E vabbè, io mangio a quell'ora lì e poi me ne vado a casa, capito? Salgo a quell'ora me vado a casa. E vabbè, quando lei avvisa che non è pronto. E va a bene, va bene. E qua c'ho il dentista, questo per cambiare. Ai ai ai. E c'ho dolore. Dolore di nascita, un bel. Tutte e due. Dolore al portafoglio, dolore ai denti, tutto, tutto dolore. Loro già ci lavorano, non ne frega niente, poi l'anestesia. Ui, vamos. Ehi, aia. Ehi, vabbè, dai, fatto pulire, Anzi, fare lo devo, per forza. Fare lo devo. Lo so. Tra una cosa e l'altra, quasi 10.000, Certo, allora. Vabbè, se non fa, bisogna farlo. Però almeno sei tranquillo. Dove c'è il dentista? Via Carlo Felice, a Sena. Ah, su, su, in alto. Dove c'è l'Ene, Luisa? Parla più su sulla, sulla sinistra, lì, al primo piano. Chiama, va. Aspetta un secondo, Lu. Chiama, c'è la bocca del telefono, Lu, aspetta un secondo. Adesso chi no, chi no. Che la Lugarie. Sì, a Daniel. Sto provando il... come si chiama il su WhatsApp, no? C'è il microfonino, tu parli e le scrivi. Aspetta, ma guarda il microfonino e sto mandando anche un messaggio, il microfonino su WhatsApp. C'è il microfonino, tu lo schiacci, parli e ti scrive, cioè quello che dici te lo scrive, non ci stai a scrivere a mano. Cavolo, figo. Come hai trovato questa impostazione, Lu? Guarda, allora, tu apri WhatsApp, aspetta un attimino, apri WhatsApp, guarda sotto, dove tu scrivi sotto, c'è la faccina e a fianco c'è il microfono, tu clicchi sul microfono, parli, dici ciao, come stai? E lo invii. Tu stai a scrivere una tastiera. No, è una storia normale invece. Letto l'hai. Allora, dove tu scrivi, no? Sotto c'è la faccina sulla, sulla sinistra e poi andando verso destra c'è il microfono. Clicchi lì, mi aspettami. Ciao Daniele, io sono a casa, tu dove sei? Questo è arrivato. Sì, è a passo scritto, potrebbe essere vocale. Almeno non lo fa fare, bro. Vedi, questo qua l'ho detto vocale. Posso, no, questo è sbagliato. Ciao Daniele, posso, no, a casa, no, questo è sbagliato. Tu dove sei? Ci vediamo dopo, ciao. Non me lo fa fare, guarda, aspetta, mi ha dato un altro audio. Tu tieni premuto o lo metti fisso quando ti dice di registrare l'audio? Come, scusa? Lo tieni premuto il microfonino o lo lasci fisso con l'impostazione? Lo tocchi, tu vai a scrivere, no? C'è la tessera, la tastiera. Ok, se lì ci sono. Poi vabbè, c'è la graffetta, la fotocamera e il microfonino. E lascia perdere quello verde, quello mi serve per mandare quello audio, non per scrivere. Sotto, sotto, aspetta che faccio uno screenshot, aspetta, e te lo mando. Vabbè. Poi ce l'hai trovato. Sì, Lu. Perfetto, boh, basta. Trovato. Non mi appariva la storia. Aspetta, se riesco a farlo. Sì, trovato, a posto. Ok, c'è la faccina, c'è poi la tastiera. Poi c'è la faccina, il microfonino, le impostazioni e bla bla bla. Ehi, hai visto, Questo manco lo sapevo, l'ha fatto notare mio fratello. Me l'ha fatto notare mio fratello. Oh, mamma mia, ragazzi, che dolore. Casino. Lei è druida. Sai che ce li hai i cani, Daniele, sì? C'ho quello nero, non so se l'hai visto, e poi ho preso un cagnolino piccolino a mamma. Perché l'altro era morto, quello marrone. Anche loro muoiono. Di cosa è morto? Vecchiaia, lui, vecchiaia, ormai era già bello che grandicello. Di vecchiaia? Grava, si conferma. Adesso babbo Daniele quanti anni è morto già? Un anno, no? Sì, ha fatto un anno a novembre. Io Massimo, per il golfo, di sicuro. Questo è molto un mio amico, il Porto Torres. Io se lo conosco, di Mula. Ma te lo vedo in comune a Fucili. Stava combattendo con un tumore. Questo tumore gli è venuto, ci aveva 47 anni. Oh, 47 anni, sì. Stava portato appresso per 2 anni. Un casino, è andato anche a Milano, ma purtroppo non ce l'ha fatta. È andato in coma. Questo è successo lunedì notte. No, aspetta, e vabbè, martedì, alle 3 del mattino è deceduto. Comunque si sono girati gli occhi, si sono fatti bianchi, si è spalancata la bocca ed è morto. Poveraccio, 2-3 figli ha lasciato. Oh, yeah. Certo, allora, giovane, poca miseria. E va bene, sì, adesso è la come si chiama? La cosa del secolo, Non si sa di cosa, adesso si muore di Covid, si muore di infarto, si muore di leucemia, e poi si muore di tumore, vabbè, alla fine si può un tumore, pure quello, comunque, un tumore al sangue. Insomma, Daniele, o ti ammazzi o muori, comunque morire devi, Non muore altro, muore i droni di zio Guido. Esatto, e vabbè, la cosa è la vita. Adesso quanti anni ha Marcolino? Questo è un giacchetto, No, ne ha fatto 9 il 4 febbraio. 9 anni, sarà già grande adesso. E vabbè, io sono un po' non lo vedo. E va bene, dai, meglio così. E beh, anche lui cresce. Lui cresce e tu invecchi. Tu invece ne hai 42, così. Esatto, sono all'80. Cazzo, passano gli anni, vedo. Porca miseria, cazzo. 8 anni fa ero al cantiere. Avrà avuto al cantiere 8 anni, è nato Marco, sono passati 9 anni. Buongiorno a casino. Vabbè, loro rimangono, loro crescono, piano piano noi invecchiamo. Io ne faccio 48. Vabbè, meglio dirlo che passano gli anni, se no è un casino, passare l'epolo, perché se non passano è un casino, È un casino, sì, e si conferma. Ti fermi, boh, sei buttito. Oi. Vabbè, Ugarie, dai, se ci sentiamo dopo, che adesso qua è pronta già la pappa. Io mi sta arrivando Antonio, là. Va bene, Daniele. Sta arrivando Antonio a casa adesso qua appena arrivato che accende. Così devi, se vuoi aspettare, chiedi un controllo, se no vai, tranquillo, vai con Dio. E allora ho già sentito questo pomeriggio io, Antonio, va bene. Sarà piazzata su lì a dove lavora lui. Ora l'abitazione sua ancora non ho fatto nessun controllo. Non ho capito, un controllo? Ci siamo seduti stasera con Bombolino, che ce l'ha piazzato lì a dove lavora. Ah, ho capito, andate, va bene Dani, vai tranquillo, va a mangiare. Io sono in fase di digestione. Allora forza, vai, mangio il dolce, là. Alla prossima Dani, saluta a tutti, saluti a casa, già ci sentiamo, là. Capo di rosmetro, dai, se è proprio lascia acceso, se finisco di cenare faccio due passaggi più tardi e vedo come sta arrivando la sua cotiaca, Bombolino. E allora, fai tranquillo Dani, non ti preoccupare, beh, devi mangiare con loro. Tu mangi un po' tardi, no, io così tardi non riesco a mangiare, come faccio? Ma non che sgranocchi qualcosa da prima, io non ce la faccio. Io Massimo, non vado a mangiare la pizza, Massimo 8:30, non più tardi, Andiamo, Lugarie, dai. Ci sentiamo dopo se coincide, Lugarie, se no alle prossime. Buon proseguimento e buon tutto. Grazie altrettanto, ciao Daniele, ciao, saluto a tutti, ciao. Ciao, prego, controllare, contraccamera, saluta anche tu in casa, a tutti quanti. Io ti saluto solo a mamma e basta, ciao, grazie, ciao.